11 minuti di questo martedì 30 settembre, bentornati sulle frequenze di Blackout. Inizia una nuova puntata di Parole Ribelli, la trasmissione del collettivo universitario autonomo. Un buongiorno a tutti e a tutte voi che siete in ascolto da Francesca. E un buongiorno anche da Eddie. Ricordiamo i contatti prima di cominciare: 346-6673-263 per scriverci e 011-2495-669 per chiamarci. Andiamo avanti con un po' di musica e poi presentiamo la puntata come di consueto. E vi ricordiamo che oltre che sui 105.250 potete ascoltare Radio Blackout anche in streaming dal sito radioblackout.org e che per quanto riguarda Parole Ribelli potete seguirci anche su Facebook sull'omonima pagina dove pubblichiamo appunto articoli che andiamo a commentare, aggiornamenti su gli approfondimenti che facciamo e sulla pagina Collettivo Universitario Autonomo Torino. If you come on. 11 e 16 sulle libere frequenze di Radio Blackout, abbassiamo un po' le casse in studio che sennò ci sentiamo con l'eco e cominciamo con una nuova puntata di Parole Ribelli. Abbiamo, come dicevamo l'altra volta, abbiamo una diretta molto interessante questa settimana e ci faremo introdurre al progetto Hip Hop Smash the Wall da Kent, che a cui partecipa una, diciamo, un progetto di rapper militanti che si stanno esponendo contro l'operazione israeliana nei confronti della striscia. Sì, quindi ci faremo raccontare un po' com'è andata, che sono appena rientrati in Italia, alcuni di loro hanno anche tenuto una sorta di diario di viaggio su alcune testate italiane, ma insomma ci faremo dire dalla voce di Kento com'è andata e nei prossimi giorni magari pubblicheremo anche qualche approfondimento in più sentendo anche gli altri partecipanti a questa iniziativa. Per il resto, come di consueto, inizieremo con un po' di rassegna stampa, iniziando insomma da alcune notizie che riguardano il locale, riprendendo anche la questione della buona scuola di cui abbiamo già discusso nelle puntate precedenti e poi insomma qualche iniziativa dal resto d'Italia, ma anche insomma notizie così di colore dal resto del mondo. Quindi niente, vi lasciamo ancora un pezzo musicale mentre prepariamo l'approfondimento e la rassegna stampa. Ci risentiamo tra pochissimo. Dedicated to all haters. Fácil, es un pizza. Allora, 11:21, siete sempre all'ascolto di Parole Ribelli. Come dicevamo poco fa, andiamo a commentare alcuni articoli che sono usciti in questi giorni. Partiamo da un pezzo del Manifesto dello scorso 26 settembre, a firma di Roberto Ciccarelli, che riprende appunto un po' la situazione del mondo della scuola. Nelle scorse due puntate abbiamo appunto già commentato questo annuncio della Buona Scuola, questo piano di riforma che il governo vorrebbe attuare di qui ai prossimi mesi, e appunto commentavamo anche come insomma un po' il cavallo di battaglia con cui è stato presentato fosse anche questa questione dell'assunzione di 100.000, 150.000, non si è capito bene, ognuno dava numeri diversi, comunque dell'assunzione di tutti, buona parte dei precari della scuola. Che appunto all'interno di quello che è sembrato più uno spot pubblicitario è stato ovviamente molto ricalcato, perché di fatto non era, insomma, a sentirla solo così una cosa negativa. Sappiamo benissimo che all'interno del mondo della scuola il problema del precariato c'è, è presente forse anche più che in altri ambiti, che appunto c'è questo problema di graduatorie infinite, di gente che rimane lì per anni in questo limbo in cui appunto di anno in anno non sa dove andrà a finire, però insomma, siccome siamo sempre in cattiva fede, ci siamo permessi da subito di dubitare un po' di questo annuncio, perché insomma la questione è che ovviamente un piano di questo tipo prevede dei finanziamenti e difficilmente ci sembrava, ecco, che il governo volesse andare in controtendenza con quello che è stato fatto in questi anni, e quindi investire dei soldi nella scuola quando appunto fino a questo momento è stato fatto tutto il contrario. Infatti era stato messo in chiaro da subito che questo tipo di operazione sarebbe stato possibile solo se i fondi necessari si fossero trovati nelle pieghe della spending review. E infatti questo è perché un articolo del Manifesto, che riprende alcuni dati del Sole 24 Ore, quindi insomma giornale sicuramente non particolarmente così di parte, insomma dati credo abbastanza anche oggettivi, annuncia il rischio che per finanziare questa appunto assunzione annunciata dal governo Renzi verranno fatti 900 milioni di tagli che andranno a colpire proprio scuola e ricerca. In particolare si legge che nella prossima legge di stabilità ci potrebbero essere appunto questi 900 milioni di euro di tagli complessivi per finanziare la prima tranche dei fondi necessari per assumere 148 mila precari appunto dalle graduatorie ad esaurimento, così come è stato annunciato da Renzi e dalla Giannini. Ne serviranno tra l'altro a regime altri 2,7 miliardi, ma al momento l'esecutivo non sembra avere alcuna idea su dove, come e quando prenderli. Secondo appunto queste indiscrezioni del Sole 24 Ore, i tagli dovrebbero essere ripartiti in questa maniera: ci sarebbero 400 milioni di tagli alle università e dal fondo FOE, che è quello che finanzia gli enti di ricerca. A essere colpito dovrebbe poi essere anche il fondo FAR, che era stato istituito dal governo Letta, che era destinato all'assunzione di ricercatori. Altri 500 milioni di euro invece andrebbero, insomma, tagliati dalla riduzione della pianta organica del personale amministrativo, il cosiddetto personale ATA, dalle supplenze di pochi giorni e dal taglio dei commissari esterni agli esami di maturità. Insomma, quindi l'ennesima mazzata che sembra profilarsi all'orizzonte. Dal canto suo il Partito Democratico ha smentito, se tale si può definire, insomma, la dichiarazione che è stata fatta dal responsabile del PD Scuola, che ha detto: la politica dei tagli non riguarda il progetto, rispetto ai si dice il governo ha investito grandi risorse in un piano straordinario per l'edilizia scolastica e lavora avendo come stella polare le politiche a favore delle nuove generazioni, che è una frase che vuol dire tutto e nulla, che di fatto non ha smentito la possibilità di questi tagli, quindi insomma saremo un po' a vedere quello che succede. Ricordiamo a questo proposito che per quanto riguarda il mondo della scuola è già stata lanciata una giornata di mobilitazione, che è quella del 10 ottobre, che vedrà gli studenti di tutta Italia, speriamo non solo gli studenti ma anche insomma altre parti del comparto scuola, scendere in piazza. Per quanto riguarda Torino ci sarà anche una, insomma, così un'iniziativa di avvicinamento questa settimana, venerdì 3 ottobre. Insomma, per chi volesse saperne di più vi invitiamo ad andare a dare un'occhiata sui siti e le pagine di riferimento della rete Studout per quanto riguarda Torino, quella del collettivo studenti auto-organizzati. contra la continuidad. Todas las mentiras que te dijeran verdad. Es saber que cruzar que no es casualidad. Mi ansiedad era saber de vos. Yo quiero todo, pero no hay registro de la eternidad. El mejor sonido es el de tu voz. No quiero nada, esta altura es mejor la soledad. Todos tienen su salida. Despreciar la vida es un viaje de ida. Vivir de la movida, ganarse la moneda y levantar a la monada te da. Lo que le falta a tu vida y que te falte no da. Estoy explotando en la fiesta, y si no pensando en vos en el silencio de la siesta. Te rezo que me gusta y lo mismo que me molesta. Por eso estoy en esta, con la gente que te dice, la que se manifiesta. Eso es lo que quiero en cada tema, una propuesta. Prefiero los matices y el color de la protesta. Un rati gatillando en cada barrio de este mundo que apesta. La leyenda de su pecho no dice nada bueno. Su alias es peligro y su bebida es el veneno. Amigo de lo público, enemigo de lo ajeno. Hace mucho ruido, suena como un trueno. Ponete atrás, que voy para adelante. Yo soy la fábrica, vos sos el fabricante. Puños en el aire, ritmo de laburante. Mi trabajo es hacer que transpiren los parlantes. Ponete atrás, que voy para adelante. Ante el racismo de este jefe, la potencia inmigrante. Tu trabajo es hacer lo que dijiste antes. Entre no, pocos sí, muchos no. Lo importante no es la boda, lo que importa es el arroz. No, no soy yo, ya lo sé, sos vos. Lo importante no es la hora, así que dame tu reloj. E intanto al 346-66-73-263 ci arriva un messaggio che ci chiede delucidazioni su cosa stia succedendo al sito informazione. Allora andiamo sul sito e vediamo che l'annuncio della pagina è che sia impossibile contattare il server. Di più non sappiamo purtroppo. Ci rimettiamo agli smanettoni della situazione che speriamo possano mettere mano al più presto a, se qualche redattore o redattrice del sito informazione è in ascolto, sappiate che avete il sito in crash e quindi, che noi non sappiamo cosa fare, quindi se non limitarci a segnalarlo. Speriamo che ritorni agibile entro la giornata. Porque me decís que no, no. Me vuelvo a equivocar. Voy por el camino que no tenía que caminar. ¿Dónde estás? Te quiero encontrar. Sol de mi vida, si te pudiera cruzar. Un milagro para mí. Sí, que se me cumplió el corazón. Oh. Donde manda capitán, muere marinero. Todos saben bien que es por dinero. Un asado, me paso, tomo sodeado, me paso, termino borracha. Tengo buena suerte y mala racha. Da un asado, me paso, tomo sodeado, me paso y termino borracha. Yo seré un cachivache y vos sos pura facha. Esto es lo que hay para decir. Directo de Gascón, que sabe que eso es resistir. Contra el desalojo y la fuerza de la polis. De todo para todo, que esto es para compartir. Dice así, supe construir un lugar donde vivir. Así que nadie me va a convencer de que me tengo que ir. No me voy a ir, esta es mi casa. Vení, pasa, miremos desde la terraza. Cuando te miro todo, todo se me pasa. No hay nada contra la fuerza de nuestra raza. Yo te convido, si te falta a mí me sobra mucha grasa. Me voy donde mamá pasa. Asado, me paso, como sodeado, me paso, termino borracha. Tengo buena suerte y mala racha. Y a un asado, me paso, como sodeado, me paso, termino borracha. Está rompiendo diario, chicas y pero sin nada, una no estamos. vuelve un poco más dura. Pero vamos buscando aventuras, donde nos llamen estamos seguras. Somos Combo Internacional, tomamos Fernet, tomamos Mezcal, pero sobre todo nos gusta bailar. Vamos a la pista, cumbre va a tocar. Vamos a la pista, cumbre va a tocar. Allora, 11:38, iniziamo con gli approfondimenti di questa puntata. Come vi avevamo preannunciato, siamo in collegamento con Kento per parlare del progetto Hip Hop Smash the Wall. Innanzitutto, ciao Kento, ci senti? Ciao ragazzi, vi sento benissimo. Perfetto, allora bentornato su queste frequenze, visto che ci eravamo già sentiti qualche mese fa per presentare il tuo ultimo album Radici, quindi insomma ci fa piacere riaverti qua su Parole Ribelli. È un piacere tornare. Oh, che gioia. Bene, allora, sicuramente c'è molto da dire su questo progetto. Cominciamo un po' dall'inizio, come nasce Hip Hop Smash the Wall, come nasce anche la vostra partecipazione, come mai, insomma, come parte questo progetto, come si incontrano un po' la vostra necessità di esprimervi in musica e la, il progetto della, di Assopace. Ma allora, il progetto nasce insomma un bel po' di mesi fa, quasi un anno fa, quindi ha avuto una genesi abbastanza lunga. Nasce sicuramente, diciamo, con il patrocinio di Assopace Palestina, ma soprattutto con l'organizzazione di Eleonora Poghi, che è stata la, la coordinatrice del progetto. In realtà quando è partito la situazione era, era molto diversa, perché sembrava il momento, no, più calmo della storia tra Israele e Palestina, si piantavano gli alberi d'ulivo, c'era questo dialogo che sembrava quasi idilliaco, per cui sul momento non si nasconde che forse inizialmente l'abbiamo preso un po' alla leggero questo impegno. E poi è successo quello che è successo a Gaza e anche noi stessi abbiamo dovuto, come dire, fare i conti con l'attualità e misurarci un po' più, più a fondo con il progetto, con i problemi che ci sono. E mano a mano che la, la partenza si avvicinava, diciamo, c'era una presa di coscienza sempre più profonda, ci rendevamo conto che il progetto era veramente qualcosa di serio, di importante, ci siamo preparati a tutte le procedure di sicurezza per Tel Aviv, per i checkpoint, insomma è stata una presa di coscienza, diciamo, graduale però molto profonda assolutamente. Ma giusto così per capire, come mai, diciamo, voi tre? E in realtà non siamo tre, siamo quattro, siamo, scusa. Siamo quattro rapper, più ci sono dei, dei riders, dei, dei b-boy, una b-girl, e quindi diciamo è un gruppo abbastanza eterogeneo che, diciamo, si è coeso soltanto per in occasione di questo progetto. Adesso comunque il progetto andrà avanti in, modo, in modi che magari ti, ti spiegherò. Però secondo me, se tu ti riferisci ai rapper, è una cosa molto interessante, no? Che siamo così diversi, che ci sono io che sono magari quello più militante, c'è Coez che è sicuramente l'artista mainstream, quello che ti fa i milioni di views, c'è Lucci che invece, no, è super rapper, no, il disco si chiama Brutto e Stonato, hardcore, e poi c'è Prisma, Roma Underground, quindi insomma l'underground di Roma, che tra l'altro è un ottimo fonico di studio, ci ha aiutato anche nelle registrazioni. Quindi secondo me è stato bello, diciamo, raccogliere un po' quelle che sono le varie ispirazioni del, dell'hip hop di oggi. Nel nostro piccolo, noi quattro, secondo me le rappresentiamo bene ed è interessante. No, ma infatti sicuramente questa formazione da, diciamo, sicuramente suggestiona anche. Poi ascoltiamo il disco, no? Dipende da come è venuto il disco, poi che ne so. Senti, tu giustamente facevi riferimento anche al contesto in cui siete arrivati, perché appunto siete vi siete recati in Palestina in una fase sicuramente delicata, poche settimane dalla fine dell'ennesima operazione, quella di bordo protettivo, che insomma ha lasciato dietro di sé migliaia di morti, oltre che una devastazione impressionante. Insomma, abbiamo avuto modo di vedere alcune foto di Gaza e davvero erano, colpivano veramente, perché davvero ci sono intere città rase al suolo, quindi sicuramente siete arrivati in un contesto molto particolare. Per te era la prima volta che andavi in Palestina, qual è stato insomma l'impatto con questo contesto, anche con la quotidianità di vivere in una situazione del genere, perché insomma al di là di questo momento particolare dopo, alla fine di questa operazione. Comunque sappiamo che anche la vita quotidiana è fatta di tanti piccoli ostacoli, di checkpoint, di una sorta di assedio continuo, quindi sicuramente un contesto molto particolare. Guarda, in realtà l'approccio è stato molto bello, perché la Palestina è un posto di cui è molto facile innamorarsi. È molto facile innamorarsi soprattutto della gente che c'è lì, della loro lotta e del cuore che hanno. Calcola anche che la Cisgiordania e Ramallah in particolare è una delle zone più laiche, quindi non senti la presenza anche opprimente di alcune organizzazioni religiose semi-integraliste. C'è molto laicato, ci sono molti compagni, quindi diciamo la spinta verso una Palestina libera, anche laica e socialista, è quello che ti fa sentire più a casa, partendo dal mio punto di vista, chiaramente partendo certo. Da come la penso io. E quindi l'atmosfera è stata immediatamente positiva. Poi noi siamo stati accolti dalla municipalità di Ramallah, quindi avevamo in un certo senso un ruolo semiufficiale lì all'interno. Però ci sono i momenti che comunque spezzano in maniera terribile questa normalità, come quando siamo andati a Hebron, abbiamo visto la città spezzata in due dagli insediamenti che tendono ad inglobare il tutto, o come quando era successo che era stato ucciso un ragazzo in un campo profughi, ci siamo trovati in mezzo praticamente alla manifestazione dei miliziani che sparavano in aria con i Kalashnikov, o ancora un altro episodio, c'era un ragazzo che lavorava al bar con cui siamo diventati amici, che ci ha detto che la sera prima avevano portato via il padre, non sapeva quando l'avrebbe rivisto. Insomma, c'è una normalità di fondo, ma è una normalità molto, molto sottile, ed è una normalità però a cui loro, i palestinesi, tengono molto, giustamente, perché dicono: se noi pensassimo sempre solo alla guerra, sempre solo all'oppressione, impazziremmo. Abbiamo anche il diritto di sorridere, di prenderci un caffè al bar e di provare ad essere felici. Ma infatti volevamo, diciamo, la curiosità forte che nasceva era anche intorno al modo in cui voi siete andati, insomma, come se aveste, diciamo, foste arrivati già con l'intenzione di tracciare un ponte, armati, diciamo, di cazzuola, vanga e pala, fatte di un microfono, musica e bombolette. In qualche modo, diciamo, il vostro intento era esplicito dall'inizio. La domanda, appunto, la curiosità che noi nasceva era se effettivamente poi questi mezzi che voi avete usato vi hanno poi permesso di penetrare un po' di più una realtà che è comunque così diversa da quella che noi si ha sotto gli occhi nel quotidiano, e quindi se effettivamente attraverso la musica, attraverso il painting, attraverso il ballo siete riusciti poi a appunto a coinvolgere le persone che avevate davanti, ma soprattutto a sentire una comunicazione diretta, un collegamento che non fosse mediato da una differenza di lingua o di provenienza. Guarda, sul momento è stata veramente la cosa più facile, nel senso che una volta che siamo entrati in studio di registrazione si è cominciato a lavorare subito in armonia assoluta. Calcola che in 3 giorni puliti in studio alla fine abbiamo chiuso 7-8 pezzi, quindi insomma non sono pochi, chiusi nel senso di scriverli e registrarli, quindi insomma un lavoro anche abbastanza imponente, per cui sul momento la barriera culturale è stata abbattuta immediatamente. Quello che mi preme è far proseguire il progetto, cioè quello che bisogna fare adesso è far uscire il disco, quindi reperire i fondi per la produzione del disco e far proseguire il progetto, portando alcuni degli artisti palestinesi in Italia, appunto perché il flusso continui. Approfitto per dire agli ascoltatori di farsi un giro sul sito di Assopace Palestina, dove troveranno tutte le informazioni per sostenere il progetto. Ecco, infatti ti volevamo appunto chiedere come sarebbe proseguita, insomma, questa esperienza. Sappiamo che tu hai anche tenuto una sorta di appunto diario di bordo sul Fatto Quotidiano, però insomma ci interessava sapere di ritorno da lì come sarebbe proseguita la cosa, quali sbocchi avrebbe avuto e anche come appunto si può sostenere questa iniziativa per chi avesse piacere di farlo. Quindi se hai voglia di darci appunto qualche informazione in più, insomma la giriamo con piacere anche da qua. Assolutamente sì, sul sito di Astropace Palestina intanto si trovano tutte le info per contribuire. Poi stiamo lanciando un crowdfunding sul quale saranno diffusi i dettagli a breve. Invito tutti quanti a seguire per adesso sulla mia pagina di Facebook, quindi cercare Kento su Facebook o su Twitter, e poi a breve verrà aperta anche una pagina specifica dove ci saranno tutte le informazioni. Per quanto riguarda il diario sul fatto, sì, è assolutamente vero che c'è e ho raccontato alcuni episodi. È anche vero che probabilmente in un contesto di movimento come il contesto di Radio Blackout si possono mettere in luce anche degli aspetti diversi, come per esempio il fatto che i compagni della Cisgiordania erano assolutamente, ed è una posizione che mi sento di sposare in pieno, erano assolutamente critici nei confronti di Hamas, raccontandomi comunque assolutamente gli eccessi, le forme di integralismo religioso, l'atteggiamento nei confronti della donna da parte di Hamas, che loro, di matrice laica, di matrice socialista, di matrice no OLP, rifiutano assolutamente. Quindi anche qui ci sarebbe la visione monografica della Palestina che spesso purtroppo abbiamo qua, è una stupidaggine. Infatti qui ci sta bene un po' la frase di uno straordinario compagno, Vittorio Arrigoni, che diceva: bombardare in Palestina per distruggere Hamas è come bombardare in Sicilia per combattere la mafia. Sì, assolutamente, Vittorio colpisce nel segno come sempre ha fatto nella sua vita, anche perché è facile leggere questa vicenda nel senso che tutti gli inasprimenti del conflitto non fanno altro che rafforzare Hamas, e difatti nei posti dove il conflitto è più aspro Hamas è più forte. No, ma infatti ci interessava appunto anche sentire la vostra viva voce, perché chiaramente da qua è anche difficile, complice la distanza e ovviamente la mediazione che viene fatta dai mezzi di informazione mainstream, è anche difficile avere poi sempre un po' il polso della situazione, quindi ovviamente sentire la viva voce di chi tocca con mano queste esperienze aiuta sicuramente, è una fonte preziosa per provare a capire quello che succede, quindi appunto sicuramente il ruolo della controinformazione è prezioso in questo senso, e ci fa piacere appunto se hai voglia di condividere un po' di queste riflessioni in più che magari non hai avuto modo di fare su altri mezzi. Ma guarda, su Hamas e su Gaza ne ho sentite di brutte. Io parlavo con questo compagno, che è una persona che comunque si è fatta 5 anni di galera ai tempi della prima intifada, il quale mi ha detto, sono cose che non ho scritto in nessun posto, le dico adesso per la prima volta, il quale mi ha detto che loro sono estremamente critici nei confronti di Hamas, che sospettano di aver, come dire, un po' fatto scoppiare ad arte alcuni focolai per riaccentuare il conflitto e quindi salire di consensi. Mi ha parlato, è tutta roba di cui io chiaramente non ho prova, però mi è stata riferita e io ve la riferisco. Mi è stato riferito di ingenti cifre di denaro che arrivano dal Qatar e dall'Arabia Saudita a favore di Hamas, e mi è stato detto anche, che anche questa è una cosa dolorosa, però mi sento di dirvela, che gli aiuti che arrivano a Gaza, prima di arrivare alla popolazione, passano da Hamas. E quindi tutto, insomma, e questo non significa assolutamente che bisogna fermare gli aiuti, però che dobbiamo essere molto bravi nella lettura politica del territorio e nel capire dove c'è una forza laica, progressista, socialista, e dove c'è una forza integralista religiosa e una teocrazia. Non dobbiamo essere, no, vedere in bianco e nero come gli occidentali, dobbiamo imparare a leggere le sfumature del conflitto. Certo, di fatto poi come i territori di cui abbiamo visione tutti i giorni, quello palestinese e altro non è che non lineare come lo si vuole rappresentare, bensì con tutte le pieghe e le increspature che ogni luogo ha, e i rapporti di forza, contraddizioni che esplodono in pieno, quello che tu in effetti riportavi a ragione come grande errore è quello di appiattire invece tutto sotto, diciamo, il fumo grigio di un bombardamento che possa far sembrare il territorio come piano, regolare, tutto uguale, cosa che di fatto poi assolutamente non è, come tu ben ci dicevi da questa tua esperienza, che direi che te l'ha consegnato come dato in maniera abbastanza lampante. Sì, assolutamente sì. Bene. Noi insomma ti ringraziamo molto per questa diretta, perché appunto ci interessava innanzitutto dar voce a questa iniziativa, che è sicuramente molto interessante, ma appunto poter anche magari allargare un po' lo sguardo, che sicuramente dalle tue parole emerge che questa esperienza insomma ti ha permesso di ragionare anche su una serie di cose, quindi appunto ti ringraziamo. Nei prossimi giorni insomma abbiamo contattato anche gli altri partecipanti all'iniziativa per sentire anche un po' la loro voce, quindi nei prossimi giorni faremo uscire sicuramente dei materiali a partire dall'audio di questa intervista. Niente, speriamo di risentirci presto e invitiamo ovviamente tutti a supportare nei modi che ricordavi appunto il frutto di questa iniziativa, quindi a partire dal disco che saremo sicuramente curiosi di ascoltare, che passeremo anche su queste frequenze a tempo debito. Ricordiamo inoltre a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che sul profilo di Parole Ribelli e sul profilo Facebook del Collettivo Universitario Autonomo di Torino abbiamo messo i link di assopacepalestina.org per rimanere sintonizzati su tutto quello che questo progetto diciamo sedimenta, e quindi i frutti anche che darà in futuro, come diceva Francesca il disco, ma anche come diceva Kento prima, la venuta di artisti palestinesi che attendiamo diciamo con gioia, perché non sia un viaggio a senso unico ma uno scambio continuo. E abbiamo inoltre linkato il blog di Kento su cui è stato riportato il diario di viaggio di questa esperienza in Palestina. Invitiamo tutti e tutte a leggerlo, perché sicuramente oltre ad essere in qualche modo lirico, come sono i testi di questo artista, noi siamo tuoi fan assolutamente, questo non lo nascondiamo. Che gioia, smettiamo di sviolinarci. E appunto sicuramente oltre ad essere importante appunto bello nella forma, ha dei contenuti che vale la pena leggere, su cui vale la pena un attimo soffermarsi, proprio perché ben evidenziano questo tratto di cui parlavamo poco fa, ovvero che quello palestinese è un territorio complesso che non va appiattito sotto la visione del conflitto che ci propongono magari media mainstream, piuttosto che visioni a cui fa comodo rappresentare la realtà come bianca o nera. Era. Poi sai, probabilmente ci sono molti altri spunti che non sono compatibili insomma coi tempi della radio, magari ci sarà modo di parlarne di persona e di confrontarci e di interagire con tutti i compagni e le compagne, mi farebbe molto piacere. Assolutamente, allora insomma ti salutiamo, ma con l'augurio di risentirci presto su queste frequenze o anche altrove, e niente, ti auguriamo una buona giornata e a presto. Grazie mille, buona giornata a voi. Ciao, ti salutiamo con un tuo pezzo allora, così no, poi... Qual è? Mandiamo quello con Danno di Ghost Dog. Ghost Dog, cane fantastico. Sì, scorsa puntata eravamo in onda con MP38, quindi questa volta ti Ghost salutiamo Dog. Così. Grazie mille, buona giornata. Ciao, a presto. Notte a novembre, luce gialla dei fanali, fuori pioggia le sirene di automezzi militari. Parlo al pianista di concerti e note fluide, parla come baby, mai se le strisce lo sbriù. Il tempo è pessimo, alzo il bavero all'estimo, esco ma qua è come se i pensieri si perdessero. Tiro sul cappuccio della felpa nera, buio denso come il latte di una strega, sono troppo spera. Tengo il quaderno nell'interno del supporto e il cuore allo stesso posto, immediatamente sotto. La vita amara incide lunghe sopra i visi, per cui scrivo canzoni per troppi pesosi. E più di strada mette spazio da ricovero, non piace a tutto a quanto rende ricco il povero. Bacio la notte quando dico tornerò a lei, ma risponde mai il tempo, non so come mi darà. In cui io torno perché il giorno no, non fa per me, domani in mente ma il presente no, non fa per me. Cane fantasma, troppa calma no, non fa per me. Mi sento addosso e nel supporto tutti i miei perché. In cui io torno perché il giorno no, non fa per me, domani in mente ma il presente no, non fa per me. Cane fantasma, troppa calma no, non fa per me. Mi sento addosso e nel supporto tutti i miei perché. In cui avevo un nome, adesso sono un uomo. voglia solo un petto la racconta, mi accendo quando il sole tramonta, il cielo frana sulla mia pelle, da che sento sete che mi strana, portata la mia mente mentre avanzo, chiudo, chiudo l'ostilità di un mondo che rifiuto, arrivo silenzioso come un barda, regala questa luna un altro blues per tutti i playbrothers, cane fantasma, questo freddo non lo fa per me, tutta questa indifferenza, questa violenza che non ho perché, mi divora dentro e perdo il baricentro, giorno dopo giorno che se ne lamento, ma imparo dalla pioggia che mi fa sentire vivo, mi stacco dallo sfondo e schivo, ogni goccia metto in conto fino a che il tipo respiro, vai a fondo la mia lama dentro al cuore di questa città, partito, il buio torno per quel giorno no, non fa per me, domani invece ma il presente no, non fa per me, la mia fantasma troppa calma no, non fa per me, il freddo addosso nel più poco tu ci sei perché, il buio torno per quel giorno no, non fa per me, domani invece ma il presente no, non fa per me, la mia fantasma troppa calma no, non fa per me, il freddo addosso nel più poco tu ci sei perché, io non sopporto il capitale la sua pasta, di pelle basta finché non sarò a cenere spazio, se i combattenti sono i soli che non perdono, resto il nemico pubblico, perco tutto terror, no. La città dorme, dorme male, poi non sogna più, mercurio promo nelle belle accende la tv, margina la rabbia, ma la mia pagina taglia, il mio non si immagina, tu immagina battaglia, vengo da legge dove spesso non stai vivo a lungo, ed una vita in una vita, poi tu non vuoi assunto, sta con poi di pazzi istanti bevitori, siamo fuori tutti i sensi, dagli eventi dei migliori, e non è musico, il disturbo di postratica, ma infetto di segno automatica, nessun carta bianca mi ricaricano l'arma, giro nella notte, questa notte cade il fantasma, il buio attorno perché il giorno no, non fa per me, domani in mese ma il presente no, non fa per me, cade il fantasma, troppa calma no, non fa per me, il freddo addosso nel tuo corpo tu ti chiedi perché, il buio attorno perché il giorno no, non fa per me, domani in mese ma il presente no, non fa per me, cade il fantasma, troppa calma no, non fa per me, il freddo addosso nel tuo corpo tu ti chiedi perché, vedo il buio, sento un'alba, ho una guerra, desarma, notte nella notte vedo oltre, cane fantasma, vivere non è bastato, io rinchiuderò il programma, questa notte forse forse morte, cane fantasma, vedo il buio, sento un'alba, ho una guerra, desarma, notte nella notte vedo oltre, cane fantasma, vivere non è bastato, io rinchiuderò il programma, questa notte forse forse morte, cane fantasma. Tra un pezzo e l'altro rassicuriamo l'ascoltatore che ci aveva scritto prima e gli altri eventualmente in ascolto, il sito di Radio Blackout è tornato online, non sappiamo se per l'intervento di qualche mano divina o se abbia fatto tutto da solo, però noi riusciamo a vederlo, quindi immaginiamo che sia tornato tutto a posto. Quindi caro ascoltatore, ti confermiamo che se ancora non lo vedi è un problema di connessione sostanzialmente. Actuaciones con hechos sin valor, muchas promesas y muchas esperanzas, no más protagonistas para gobernar, queremos mensajes de humildad, la verdad que su mentira no nos permite volar, y nos quieren hacer creer en sus falacias, engaños, patrañas, puro falsedad, y la crisis, su crisis, ahora viene el resultado de su mala gestión, de vender, de comprar, espolear, estafar, especular, con su política del tocho, mamón al maón, dinero bajo mano, al final se hipoteca el ciudadano, antes del poder es lo que tenéis, queréis más, mucho más, ¿dónde vais? Políticos corruptos, gestores social, corrupción, impunidad, compromiso aparente, extorsión, chantaje a la gente. ens agraden les nostres solucions per la sortida. Empresonem els veritables responsables, que si no continuarem en la mateixa situació tota la vida. Sí, així és, a les presons, que visquin els borbons, que collons. Hi ha solucions, hi ha alternatives, i el que passa és que no som no puc les col·lectives. Hi ha països que han pogut el sabor quan passo. Acollem la llibertat amb la força del poble, amb la llum sentiment, amb la ràbia de la gent. Un poder a seguir, haurem de desobeir. La situació s'està agressant, aturant sanitat. Aquí hi ha gent que passa fam. El capitalisme ens ha fet mal, això no es pot tolerar. Qui t'ho tira el capital abans que sigui massa tard? Retalleu, retalleu, que marxen els punts d'arreu. Retalleu, retalleu. Esta democràcia és una estafa. Basta ja. Esta democràcia és una estafa. Basta ja. Esta democràcia és una estafa. Basta ja. La democràcia és una estafa, amigo, basta ja! Digo a la democràcia i no ho és, mira cada cop, hi ha més policia pels carrers. Hem viscut per sobre de les nostres possibilitats i va fer anar 22 milions amb comptes suïssos i la ràbia que porta la cosa a l'inrevés. Ma mare passa amb 420 euros al mes, com lo ves? Els sindicats estan comprats, la monarquia no serveix a res. El cel no és blau, el cas palau, oblidat, et sents babà, un esclau aturat. Acció directa, la solució, que no t'ha mullat i ho prepara. 12.08 sui 105.250, le libere frequenze di Radio Blackout. Ricordiamo ancora una volta i contatti: 346-6673-263 per scriverci e 011-2495-669 per chiamarci. E dopo questa diretta molto interessante con Kento, che chiaramente ha avuto un'esperienza molto densa, visto quello che ha visto, le tante cose che aveva da dire, le tante cose scritte, e sì, appunto, come si diceva, visto il periodo anche in cui sono andati. E torniamo un po' però al mondo universitario, andiamo un po' a commentare un po' di fatti di cronaca, e l'ultimo, uno dei fatti più interessanti, o meglio più, diciamo che possiamo ascrivere tra le notizie di colore, arriva dagli USA, Strike Debt, un collettivo che ha di fatto boicottato, cioè che è volto a boicottare la finanziarizzazione del diritto allo studio, ma che non si limita a fare un discorso, diciamo, contro il debito e l'indebitamento studentesco, bensì ha agito nel concreto riscattando fino a 4 milioni di dollari, no, 13,5 milioni di dollari di alcuni studenti. Come? Forse non tutti sanno che il mercato, c'è un mercato secondario dei debiti, ovvero alcuni tipi di debito possono essere rivenduti da alcuni creditori per una cifra ben irrisoria rispetto all'ammontare del debito stesso. Così dice Astra Taylor, parte di questo collettivo, una fattura da $1,000 per una visita al pronto soccorso può valere dai 30 ai $50 al massimo sul mercato secondario dei debiti. In questo caso, dunque, il collettivo ha versato $100,000, ricomprando l'equivalente, dicevamo, di 3,856 milioni di dollari di crediti studenteschi da un'università, in particolare l'Everest College, che fa parte di questa, diciamo, cordata della conoscenza, potremmo chiamarla, i Corinthian Colleges, che sono, diciamo, tra i più ammanicati con quelle che sono poi gli istituti creditori e di fatto anche il Dipartimento dell'Educazione. Questo collettivo punta il dito contro il Dipartimento, dal momento in cui esso dovrebbe segnalare e tutelare gli studenti da questo tipo di di indebitamento, mentre invece ne tutela assolutamente la longevità. Tra parentesi, martedì l'Ufficio di Protezione dei Consumatori ha annunciato che addirittura farà causa contro questa università, perché l'accusa dell'ufficio è quella di illudere decine di migliaia di studenti, spingendoli a indebitarsi per finanziarsi gli studi, promettendo loro dei lavori che poi si rivelano essere fittizi, fasulli. Quindi diciamo che se l'Ufficio di Protezione dei Consumatori non sembrerebbe proprio essere l'organo preposto a difendere l'Accademia, eppure in un processo di così avanzata finanziarizzazione del diritto allo studio poi diventa di fatto l'organo deputato. Questo, diciamo, comunque non è un dato trascurabile, come non è trascurabile il fatto che dopo i prestiti immobiliari, i prestiti studenteschi siano la seconda causa di indebitamento degli Stati Uniti. E allora ricordiamo che siamo ancora in piena crisi per quella bolla scoppiata dai subprimes, quindi dai mutui. Molte letture portano avanti l'ipotesi del fatto che la prossima bolla finanziaria scoppi proprio intorno ai debiti studenteschi. Quindi a tal proposito, infatti, invitiamo tutti e tutte ad andare a fare un giro su questo sito debtcollective.org. Questo appunto è questa rete che è sempre dietro anche a questa, al riscatto di cui parlavamo prima, dietro anche a questa associazione Rolling Jubilee, che sostanzialmente si occupa di amministrare un po' questa pratica di riscatto di altri debiti, quindi mettendo in connessione persone che hanno questo stesso problema, costruendo un discorso, ma anche dando poi di fatto, diciamo, indirizzi legali, piuttosto che facendo fundraising per coprire le situazioni emergenziali. Quindi, a parte oltre questa piccola associazione creata all'Atere, che si occupa di più o meno piccole soluzioni concrete, invitiamo tutti e tutte ad andare appunto su debtcollective.org, perché è molto interessante anche il è molto interessante questo sito, oltre ad essere molto ben fatto, ma comunque crediamo che in qualche modo inquadri molto bene il tipo di rapporto di potere che poi il debito instaura nei nostri confronti, nel senso in cui quella dell'indebitamento abbiamo visto che è una dinamica che non è assolutamente liscia, come si vorrebbe far credere, non è assolutamente indolore, anzi, diciamo, è lo strumento di ricatto tra i più potenti che in questo momento viene agitato contro di noi. Ricordiamo che diciamo seppur in maniera molto differente rispetto al territorio statunitense, perché appunto l'indebitamento italiano non ha nulla a che vedere con quei passaggi, però vediamo che comunque c'è abbastanza un salto in avanti rispetto a, anche qui rispetto alla messa a profitto, allo sfruttamento e quindi anche al creare debito. Sulla conoscenza, sulla cultura, Torino e la sua riconversione da città industriale a città della cultura ha visto in pieno fare questo passaggio e quindi creare tantissimi eventi, tantissimi festival, tantissime cose, cosine carine a cui partecipare, per cui poi si spalancano voragini di debito o si vanno a rimpinguare quelle già esistenti e vengono poi tagliati servizi e quindi possibilità per abitanti, per gli abitanti della città. Sì, sicuramente appunto una notizia interessante che ci faceva piacere così diffondere e commentare. È chiaro che iniziative di questo tipo non possono essere la soluzione al problema del debito, ma insomma assumono anche così un interesse nel momento in cui comunque questo collettivo di pari passo porta avanti anche tutta una critica appunto del sistema del debito, quindi appunto è chiaro che non si può immaginare di risolvere la questione in questo modo, ma comunque così era uno spunto interessante anche alla luce appunto del contesto statunitense di cui più volte abbiamo parlato, che come ricordava anche Eddie appunto vede con forza questo problema dell'indebitamento che secondo molti potrebbe essere la prossima bolla ad esplodere, e anche in riferimento al nostro contesto che appunto sicuramente è molto diverso, lontano anni luce da questa situazione, ma che sicuramente ha una tendenza ad andare in quella direzione. Pensiamo insomma alle politiche sul diritto allo studio degli ultimi anni, in cui anche qua nella regione Piemonte si affacciava un po' questa questione dell'indebitamento. Quindi niente, ci faceva piacere darla. Per chi fosse interessato, la notizia è stata inizialmente riportata dall'agenzia stampa lapress.ca ed è stata poi tradotta da alcuni siti italiani, quindi la trovate facilmente online. E adesso vi lasciamo un po' di musica, poi passiamo ad altre notizie. I take money from the rich and invest it in the poor. Been a long time coming, time we settle the score. You can do it for your people, but I do it for your heart. Yes, I got mines covered and I never let them fall. When the real hits the fan, son, who you gonna call? Not Ron Paul, fall like an honorable. River Martinez with a team of superheroes. Walk throughout the land for my team of super zeros. Add it up, come back with negative indictments of a system that starts out positive enlightenment. Occupy the streets, let's occupy the nation. But don't occupy your mind with false occupation. Occupy the positions where your team falls short. Stand with the accused by occupying the court. Occupy all airwaves and spaces in between. Occupy the undercover and the overseen. But when occupying ain't enough, and we need a next tactic. Combine the global block map to see what happens. We do it for the people, we do it for the movement. Occupy America, that's what we do. Occupation, that's what they all yelling. But it's gangsta nation. All the records that we're telling our future, all the politicians back thinking about the next move. Spend the next million on the backs of our children. I won't be telling the story so rude that it's never telling. No more lies, I can find time in the minds of my side while we strive to survive and realize the lies and pictures of our future. Lights that dimmer underneath the shadows they cast and leaving us without dinner. While we all got these traps against the wall, no relief in sight, that's why we stress and support. Yo, we bring heat tonight to hear the call, and my suggestion is to heed the call. Occupy government, ain't no either or. We are the ones we've been waiting for. I'm free, not defined by what I have or what I give to my community and humanity. I'm free, I know. identity. And really don't care what you think of me. I'm free. Living my dreams, but with no fear and possibilities. Cause I know they ain't there. I'm free. Ain't nobody I can promise you. This way, nothing ever could be taken from me. A proposito di indebitamento, continuiamo insomma su questo tema, ma ci spostiamo, torniamo un po' alle nostre latitudini per parlare di Torino, perché ieri in Consiglio Comunale si è svolto un consiglio molto denso e lungo, che aveva all'ordine del giorno uno dei tasti dolenti della nostra amministrazione, ovvero quella dell'indebitamento, che è appunto un problema sicuramente pressante per la Giunta di Torino. E la soluzione soluzione che sembra profilarsi all'orizzonte, che è stata proposta dall'assessore al bilancio Gian Guido Passoni, è perfettamente in linea con quello che è stato fatto finora in questi anni, ovvero svendere pezzo dopo pezzo tutto il patrimonio della città per cercare di rattoppare un po' i buchi di bilancio. Prendiamo un articolo di Repubblica che è uscito sulle pagine online di Torino da poco questa mattina, che annuncia insomma che il comune vorrebbe mettere in vendita ben 8 assessorati. Dalla vendita appunto di questi palazzi storici dovrebbe ricavare, sono attese appunto 50 milioni di euro. Appunto si parla di Piazza Palazzo di Città e di tutti gli altri edifici attorno, quindi insomma proprio nel cuore del, insomma, di quelli che sono attualmente i palazzi dell'amministrazione locale. Il tutto per trasferire poi i vari dipendenti appunto non solo della sede centrale ma anche di quella di via San Francesco da Paola, oltre che l'ex tribunale di Corso la sede dell'ex tribunale, dovrebbero essere trasferiti tutti in un'unica sede nell'ex caserma di Piazza Rivoli e nel polo Rebaudengo. Quindi insomma questo piano dovrà ancora essere confermato e discusso in questi giorni, ma appunto l'ipotesi che sembra profilarsi è appunto questo. Appunto tra i palazzi ci figurano la Curia Maxima, che alloggi ospita 3 assessorati, quello allo sport, all'ambiente e all'innovazione, quello all'integrazione e alle politiche giovanili, poi c'è l'ex pretura di via Corte d'Appello, attuale sede dello sportello casa e degli uffici del vice sindaco. Largo 4 marzo, dove prima del trasferimento in Corso Vittorio c'era l'ufficio del pretore Guariniello, che appunto era già stato ipotizzato una sua messa in vendita l'anno scorso. Si prosegue nella lista con l'ala destra di Piazza Palazzo di Città, il palazzo di Piazza San Giovanni, dove c'è l'assessorata ai trasporti, l'ex convento di via San Francesco da Paola, lo stabile dei servizi educativi, insomma più o meno tutto. Non si sa bene cosa rimarrà del comune di Torino se questo piano di Passoni verrà messo in pratica, però appunto la notizia era interessante, insomma abbiamo parlato più volte di delle politiche locali, soprattutto in riferimento all'esperienza della Cavallerizza, quindi stiamo un po' a vedere quello che succederà. Sì, infatti abbiamo visto che questa è la linea politica che viene seguita da un bel po'. Tra parentesi, interessante, se qualcuno diciamo non ha una mattinata d'ufficio da riempire, andate a vedere i video della campagna elettorale di Passoni, perché sono sensazionali, diciamo è tutto un attacco alla svendita, alle decisioni prese sulla testa dei cittadini, e poi è bellissimo vedere come da che si è entrato in carica Passoni non abbia fatto altro che vendere tutto quello che aveva sotto mano senza interpellare nessuno. Abbiamo visto infatti che nei confronti dell'assemblea Cavallerizza è stato mostrato questa disponibilità, che poi però si è tradotta di fatto non in quella che poteva essere un segno politico forte, ovvero una moratoria sulla vendita della Cavallerizza, bensì in un sì bravi bravi state buoni, però dobbiamo vendere. E nel frattempo al 346-667-3263 arriva il commento di un ascoltatore o ascoltatrice che appunto prende parola su questa questione che stavamo commentando. Ci scrive: non solo quello, il comune vuole anche comprare alloggi di persone che non riescono a mantenerli o a pagare i mutui o che non hanno soldi per medicine o badanti, insomma a quale prezzo, soprattutto coscienti che questi schiatteranno fra poco. Beh, sicuramente un piano di dismissione è molto più ampio, come dicevamo, già in atto da diverso tempo. Diciamo che questa svendita di tutti i palazzi storici è un po' diciamo la punta dell'iceberg di politiche più generali. Un altro messaggio sempre in questo momento ci scrive, era un articolo di qualche giorno fa sulla Repubblica o la Stampa, diciamo che è stato ripreso, probabilmente la questione era già stata annunciata nei giorni scorsi ma appunto era all'ordine del giorno nel Consiglio Comunale di ieri, quindi è stata ripresa forse in maniera più puntuale e aggiornata nella mattinata di oggi. Noi abbiamo fatto le 12:28, quindi vi lasciamo a un ultimo pezzo, poi andiamo a ricordare come di consueto alcuni appuntamenti prima di salutarvi. Look, I am at World Bank, what it look like, and you're Allora, quando sono le 12.32 andiamo a ricordarvi alcuni appuntamenti. Partiamo da oggi, tra pochi minuti a Palazzo Nuovo tornano i pranzi sociali della biblioteca autogestita del terzo piano, quindi dall'una troverete il pranzo a prezzi come sempre popolari, quindi non fatevi scoraggiare dalla giornata grigia, ma insomma cercate di rallegrarvi con un pranzo in compagnia invece del solito panino tra una lezione e l'altra. Ovviamente ricordiamo che stasera, sempre sulla scia dei pasti in compagnia, alle 20.30 cena benefit. Scusate, la rima era involontaria, per quello ridevo. Cena benefit detenuti, asilo occupato, in via Alessandria 12. E sempre per quanto riguarda la giornata di oggi, ma ci spostiamo dall'ambito culinario a quello insomma più di discussione, alla Cavallerizza occupata alle 19, assemblea dei lavoratori dell'arte e dello spettacolo e dell'immateriale. Insomma, un invito alla partecipazione attiva per tutti gli operatori della cultura, attori, registi, compagnie, danzatori, musicisti, chi più ne ha più ne metta. Appuntamento appunto alle 19 e a seguire concerto live in quel della Cavallerizza occupata. Sì, ore 21.30 Hard Bopper Union in concerto, ovvero il jazz nero che si fa colto. Quindi vediamo cos'altro offre l'agenda di Blackout per i prossimi giorni. Ricordiamo, sì, sempre per quanto riguarda gli appuntamenti musicali, gli ultimi appuntamenti con i festeggiamenti dei 25 anni di occupazione del CSA Murazzi, questo venerdì 3 ottobre, Ride Beat volume 3, Techno Night con Yashin, DJ di Radio Blackout, Luke Anto e Briso Is Dead, a.k.a. Gigio. Dalle 23 si balla tutta la notte e sempre venerdì 3 invece Maxi Processo Notav, nuova udienza, in questo caso sarà... ci sarà sempre spazio per le dichiarazioni degli imputati e dei testi della difesa. L'appuntamento è dalle 15 presso l'aula bunker di Corso Regina numero 540. Questo insomma più o meno quanto per i prossimi giorni. Noi vi lasciamo un ultimissimo pezzo e poi vi salutiamo. Sono già uomo, nel mio cuore c'era ancora e non perdono. Nel mio cuore non dimentico chi sono. Chi è il buono, chi è il cattivo. Io resisto e sopravvivo. La faccia in questa terra è solo un sogno che hanno ucciso. Lo porto inciso come il segno della logica del piombo. Il rombo dei bulldozer nel mio campo. La ferocia del più forte non da scampo. Ho visto con i miei occhi cosa fa una guerra lampo. Al banco da imputato, il mio popolo è sbagliato. Un muro di cemento impone un vivere forzato. Blindato in questo niente, pizzato da Occidente. La Palestina è lacera, mai salda al continente. Io arabo in pelle, odi la mia pelle. È una storia millenaria come il cielo e le sue stelle. Nelle celle prigionieri di Israele. Nelle strade con le pietre e le bandiere. Contro l'arroganza del potere. Che ne sai della mia guerra, che ne sai della mia terra. 10 anni sono un uomo e ho imparato a stare in cella. Con il cuore che ho un tamburo, con le pietre per la strada. Viva Palestina, viva, viva. Che ne sai della mia guerra, che ne sai della mia terra. 10 anni sono un uomo e ho imparato a stare in cella. Con il cuore c'è un tamburo, con le pietre per la strada. Viva Palestina, viva, viva l'intifada. Padre, pagine leggiate, la storia del deserto, il libro aperto ad impescabile. Si apre questo libro trascurando gli antefatti, ai misfatti del capitolo orientale, sin dai tempi dell'impero coloniale. Gendarmeo i banditi del suo piano, invece come il grano, cristiano musulmano, la legge del denaro è solo codice sovrano. Alfa del Giordano, terra in crisi del mio sangue, a far la mia coscienza, l'innocenza che si infrange, piange la mia infanzia, la mia ansia non ti frange, dall'angolo del mondo venerato come il piange. Che ne sai della mia guerra, che ne sai della mia terra, venduta per due soldi alle signori d'Inghilterra. Che ne sai tu dell'eccidio di Israele, un'infanzia consumata come cera di candele. Che ne sai della mia guerra, che ne sai della mia terra, 10 anni sono un uomo e ho imparato a stare in cella. Il cuore c'è un tamburo, le pietre per la strada. Viva Palestina, viva, viva l'intifada. Che ne sai della mia guerra, che ne sai della mia terra. 10 anni sono un uomo e ho imparato a stare in sella. Con il cuore c'è un tamburo, con le pietre per la strada. Viva Palestina, viva, viva l'intifada. Dodici e trentotto di questo martedì 30 settembre, Parole Ribelli volge al termine, vi dà un saluto, vi dice di non farvi prendere male da questo cielo grigio e vi ricorda gli appuntamenti appena dati, mi raccomando tutti e tutte a pranzo al terzo piano, noi ci si vede martedì prossimo, ciao a tutti e tutte da Eddie. Un saluto anche da Francesca, non lasciate le frequenze di Blackout, tra pochissimo il GR a seguire Cattivi Pensieri. Noi ci risentiamo martedì prossimo, nel frattempo potete ascoltarci in podcast su qa-torino.blogspot.com. Un saluto e buona giornata.